Attraverso quel vetro appannato, un saluto appena accennato, poi tornavi tra quaderni e studenti e parlavi di sintassi e di accenti. Quando uscivi come la regina dei fiori da un castello senza torri né alfieri, stretta in mezzo ad un libro e una borsa, ti affrettavi per non perdere l'ultima corsa. E i pensieri a rincorrere posti lontani, e un timore nascosto dentro le mani, si leggeva sul tuo sguardo profondo che eri davvero cittadina del mondo. Sotto un salice, alla fine del pianto, o sotto un sole intimidito dal vento, aspettavi leggendo l'ora della lezione, la tua vita, la tua grande passione. Fanny Dubois, qu'est-ce que c'est l'Alliance Française? Oh, qu'est-ce que c'est, Fanny, ta vie? T'as une vie, comment va-t-elle? Comment ça va, Fanny? Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci. I miei racconti in un francese stentato di un progetto già finito e archiviato. Mi parlavi dei tuoi boschi e tuoi monti, ma sentivo che erano solo momenti. Sei comparsa come un fiore bianco su un melo, col mattino e con lo sfondo del cielo. A bientôt, mon ami, mi hai detto prima di andare, ma hai lasciato un ricordo che non so più cancellare. Fanny, dis-moi, qu'est-ce que c'est l'Alliance Française? Oh, qu'est-ce que c'est, Fanny, ta vie? Ta jeune vie, comment va-t-elle? Comment ça va, Fanny? Merci pour tout ce que tu m'as laissé.